Voglio che abbia un uomo come si deve che si occupi delle faccende. Voglio che assuma di nuovo Garth, disse Sir James. Si è sbarazzato di Garth 12 anni fa e da quel momento tutto è andato in malora. Penso di indurre Garth a lavorare per me. Ha fatto un progetto favoloso per le mie costruzioni e Lovegood non è abbastanza bravo. Ma Garth non si assumerebbe la responsabilità della tenuta di Tipton di nuovo, a meno che Brooke non la lasciasse completamente nelle sue mani. Ed anche ha ragione, disse il pastore. Garth è un tipo indipendente, è un tipo originale e semplice. Un giorno, quando stava facendo una qualche stima per me, mi disse a bruciapelo che di rado i preti ne capivano qualcosa di affari e combinavano dei guai quando si intromettevano, ma lo disse con una calma e un rispetto come se mi avesse parlato di marinai. Farebbe di Tipton una parrocchia diversa se Brooke gliela lasciasse dirigere. Vorrei che poteste, con l'aiuto di Trumpet, a convincerlo. Se Dorotea si fosse mantenuta vicina allo zio, ci sarebbe potuta essere qualche probabilità, disse Sir James. Avrebbe potuto esercitare un certo potere su di lui col tempo e si è sempre preoccupata per la tenuta. Aveva delle idee brillantissime su tali cose, ma ora che Esabo la tiene occupata da tutto il tempo. Celia si lamenta molto. Non riusciamo a indurla a venire a pranzo da noi da quando lui ha avuto quell'attacco. Sir James terminò con uno sguardo di compassionevole disgusto e Mrs. Cadwallader scosse le spalle, il che voleva dire che lei non si sarebbe aspettata mai niente di nuovo in quella direzione. Povero Kesabo, disse il pastore, quello è stato un brutto attacco. Mi ha dato l'idea di una persona distrutta l'altro giorno dall'arcidiacono. Per dire la verità, riprese Sir James, non volendo soffermarsi sugli attacchi. Brooke non tratta male i suoi affittuari o nessun altro, ma quella mania di ridurre e limare le spese. Andiamo, quella è una benedizione, disse Mrs. Cadwallader. Questo lo aiuta a trovarsi al mattino. Può darsi che non conosca le sue opinioni, ma conosce le sue tasche. Io non credo che uno ci guadagni facendo lo spilorcio sulla propria terra, disse Sir James. La spilorceria può essere esagerata come altre virtù. Non porta nessun beneficio tenere i propri maiali magri, disse Mrs. Cadwallader, che si era alzata per guardare fuori dalla finestra. Ma parla di un politico indipendente, lui comparirà. Cosa? Brooke? Fece il marito. Sì, ora tu lo tormenti col trumpet, Humphrey, e io gli metterò addosso le sanguisughe. Voi cosa farete, Sir James? Il fatto è che non mi va di affrontare l'argomento con Brooke, nella nostra posizione reciproca. Tutta la cosa è così spiacevole. Vorrei proprio che le persone si comportassero da gentiluomini, disse il buon baronetto, con la sensazione che questo fosse un programma semplice e completo per il benessere sociale. Eccovi tutti qui, disse Mr. Brooke, girandosi intorno e stringendo le mani. Stavo andando a casa vostra, Chetan, ma è un piacere trovare tutti, sapete? Beh, cosa ne pensate delle cose? Vanno avanti un po' di fretta. È stato abbastanza vero quello che ha detto Laffitte. Da ieri è trascorso un secolo. Sono nel secolo XXI, sapete, sull'altra sponda del canale. Van avanti più in fretta di noi. Ma sì, disse il parroco, raccattando il giornale. Ecco qua il trumpet che vi accusa di essere indietro. L'avete visto? Eh? No, disse Mr. Brooke, lasciando cadere i guanti nel cappello e aggiustandosi di fretta il monocolo. Ma Mr. Cadwallader tenne il giornale in mano, dicendo con un sorriso negli occhi: Guardate qui. Tutto questo parla di un proprietario terriero che abita a meno di 100 miglia da Middlemarch, il quale riceve i propri affitti. Dicono che sia l'uomo più retrogrado della contea. Credo che siate stato voi a insegnargli quella parola sul Pioneer. Quello è Keck, un analfabeta, sapete? Retrogrado. Andiamo, su via, questo è coi fiocchi. Lui pensa che significhi distruttivo. Vogliono presentarmi come una persona distruttiva, capite? Disse Mr. Brooke con quell'aria che di solito è provocata dall'ignoranza di un avversario. Io credo che lo conosco il significato della parola. Ecco un paio di colpi ben assestati. Se dovessimo descrivere un uomo che è retrogrado nel senso peggiore della parola, diremmo che è uno che si definisce un riformatore della nostra Costituzione, mentre ogni interesse comune di chi è immediatamente responsabile sta andando in rovina. Un filantropo che non può non sopportare che un furfante venga impiccato, ma qui non importa se cinque onesti affittuari quasi muoiono di fame, Un uomo che impreca contro la corruzione e mantiene le sue fattorie a un affitto esorbitante, che impreca fino a diventare rosso contro i borghi putridi e non si preoccupa se ogni campo delle sue fattorie ha un cancello marcio. Un uomo assai aperto verso Leeds e Manchester, senza dubbio, concederebbe a un qualsiasi numero di rappresentanti al Parlamento che paghino il seggio di tasca propria. Ciò che è contrario a dare è una piccola contropartita sui giorni d'affitto per aiutare un affittuario a comprare del bestiame, o un conguaglio sulle riparazioni per tenere il maltempo lontano dalla porta del granaio, o far sembrare la propria casa un po' meno simile a quella di un fittavolo irlandese. Ma conosciamo la definizione di filantropo data da un buon tempone, uno la cui beneficenza aumenta il rapporto diretto al quadrato della distanza. E avanti così. Tutto il resto vuol dimostrare che razza di legislatore è probabile che sia un filantropo, concluse il pastore, gettando giù il giornale e intrecciandosi le mani dietro la nuca, mentre guardava Mr. Brooke con un'aria di divertita imparzialità. Andiamo, questa è davvero bella, sapete, disse Mr. Brooke, raccogliendo il giornale e cercando di sopportare l'attacco con la stessa tranquillità del proprio vicino, ma arrossendo e sorridendo con aria piuttosto nervosa. Quella di imprecare fino a diventare rosso contro i borghi putridi. Non ho mai fatto un discorso sui borghi putridi in vita mia. E quanto a imprecare fino a diventare rosso e cose del genere, questi uomini non capiscono mai cosa sia una buona satira. La satira, sapete, dovrebbe essere vera fino a un certo punto. Ricordo che lo dissero sull'Edinburgh da qualche parte. Deve essere vera fino a un certo punto. Beh, quella sui cancelli coglie nel segno, disse Sir James, facendo attenzione ad avanzare con cura. Dangle si è lamentato con me l'altro giorno che non aveva un cancello decente nella sua fattoria. Garth ha inventato un nuovo modello di cancello. Vorrei che lo provaste. Uno dovrebbe usare un po' del paprolegno in quel modo. Voi vi interessate di agricoltura utopica? Sapete Chatham? Disse Mr. Brooke, che dava l'impressione di rivolgere un'occhiata alle colonne del Trumpet. Questo è il vostro passatempo e non badate a spese. Io pensavo che il passatempo più dispendioso del mondo fosse candidarsi per il Parlamento, disse Mrs. Cadwallader. Dico che l'ultimo candidato sconfitto a Middlemarch. Giles, come si chiamava, no? Spese 10.000 sterline e fallì perché non unse abbastanza ruote. Che amara riflessione per un uomo. Qualcuno diceva, fece il parroco ridendo, che East Retford non era niente in confronto a Middlemarch per la corruzione. Niente del genere, disse Mr. Brooke. I Tory corrompono, lo sapete. Oli e la sua banda corrompono con cene, mele cotte e cose del genere e portano alle urne i votanti ubriachi. Ma non faranno a modo loro in futuro. Non in futuro, sapete? Middlemarch è un po' timida, lo ammetto. I cittadini sono un po' timidi, ma li educheremo, li faremo maturare, sapete? Lì la gente migliore sta dalla nostra parte. Ole dice che avete degli uomini dalla vostra parte che vi nuoceranno, osservò Sir James. Dice che Bulstrode, il banchiere, vi nuocerà. E se vi capita di essere attaccato, si intromise Mrs. Cadwallader, metà delle uova marce significherebbero odio per il capo del vostro comitato. Santo cielo! Pensate cosa deve essere prenderle per delle opinioni sbagliate. E mi sembra di ricordare la storia di uno che fecero finta di insediare e lo fecero cadere apposta sul letamaio. Darle non è niente in confronto alla loro abilità di trovare le magagne di una persona, disse il pastore. Confesso che quello di cui avrei paura se noi pastori dovessimo passare sul palco delle elezioni per gli avanzamenti. Io avrei paura che mi contassero tutti i giorni che sono andato a pescare. Parola mia, credo che la verità sia l'oggetto più duro con cui uno possa venir colpito. Il fatto è, disse Sir James, che se un uomo entra nella vita politica deve essere preparato alle conseguenze, deve rendersi inattaccabile dalle calunnie. Mio caro Chatham, tutto questo è molto bello, sapete, disse Mr. Brooke. Ma in che modo vi renderete inattaccabile contro le calunnie? Dovreste leggere la storia, guardare l'ostracismo, la persecuzione, il martirio e cose del genere. Capitano sempre agli uomini migliori, sapete? Ma come dice Orazio, fiat justitiat ruat, più o meno così? Esattamente, disse Sir James, un po' più accalorato del consueto. Quello che intendo dire con l'essere inattaccabile dalle calunnie è essere in grado di contraddirle con i fatti. E non è un martirio pagare dei debiti in cui si è cacciati da soli, disse Mr. Cadwallader. Ma fu l'evidente irritazione di Sir James a scuotere maggiormente Mr. Brooke. Beh, sapete, Chatham, disse alzandosi, raccogliendo il cappello e appoggiandosi sul proprio bastone, Voi e te abbiamo sistemi diversi. Voi siete favorevoli a spendere per le vostre fattorie. Io non voglio dare a intendere che il mio sistema sia buono in tutte le circostanze. In tutte le circostanze, capite? Bisognerebbe fare una valutazione di tanto in tanto, disse Sir James. I profitti sono molto buoni a volte, ma mi piace una giusta valutazione. Cosa ne dite, Cadwallader? Sono d'accordo con voi. Se fossi in Brooke, chiuderei subito la bocca al Trumpet facendo fare a Garth una nuova valutazione delle fattorie e dandogli carte blanche per i cancelli e le riparazioni. Questa è la mia visione della situazione politica, disse il pastore facendosi largo, con i pollici infilati nel giro delle maniche ridendo alla volta di Mr. Brooke. Questa è una sorta di esibizionismo, sapete, disse Mr. Brooke. Ma io vorrei che mi diceste il nome di un altro proprietario che ha tartassato meno di me i propri affittuari per gli arretrati. Lascio che i vecchi affittuari restino. Sono di un'indulgenza rara, lasciate che ve lo dica, di un'indulgenza rara. Ho le mie idee e prendo posizione su di esse, capite? Uno che fa questo è sempre accusato di eccentricità, incoerenza e cose del genere. Quando cambierò linea di condotta, seguirò le mie idee. Dopodiché, Mr. Brooke si ricordò che c'era un pacchetto che aveva tralasciato di spedire dalla Grange e salutò tutti in fretta e furia. Non volevo prendermi delle libertà con Brooke, disse Sir James, vedo che è stato punto sul vivo, ma quanto a quello che dice sui vecchi affittuari, per l'esattezza, nessuno nuovo affittuario prenderebbe le fattorie ai termini correnti. Ho idea che col tempo si convincerà, disse il pastore. Ma voi tirate da una parte, Elinor, e noi tiravamo da un'altra. Volevate incutergli la paura delle spese e noi vogliamo spaventarlo perché le faccia. Meglio che tenti di rendersi popolare e si accorga che la sua fama di proprietario gli è d'impaccio. Io non penso che abbia la minima importanza il Pioneer o l'Ladislav o il conciatore di Brooke per gli abitanti di Middlemarch, ma importanza che i parrocchiani di Tipton stiano bene. Scusatemi, siete voi due che siete sulla strada sbagliata, disse Mrs. Cadwallader. Gli avreste dovuto dimostrare che perde soldi con una cattiva amministrazione e allora tutti avremmo tirato dalla stessa parte. Se gli aprite le porte della politica, vi metto in guardia sulle conseguenze. Poteva andar bene che in casa inforcasse dei bastoni e li chiamasse idee. Capitolo 39. La mente di Sir James Chatham non era fertile di stratagemmi, ma il suo crescente desiderio di agire su Brooke, una volta giunta la sua costante fiducia nella capacità persuasiva di Dorothea, divenne fruttifero e sfociò in un piccolo piano. Vale a dire addurre l'indisposizione di Celia come motivo per portare Dorothea da sola al palazzo e lasciarla alla Grange con la carrozza lungo la strada dopo averla messa del tutto al corrente della situazione riguardante il modo di amministrare la tenuta. In tal modo accade che un giorno, verso le 4, quando Mr. Brooke e Ladislav erano seduti nella biblioteca, la porta si aprì e fu annunciata Mrs. Casebow. Will, un attimo prima, si trovava profondamente immerso nella noia e obbligato ad assistere Mr. Brooke nell'ordinare dei documenti sull'impiccagione di ladri di pecore. Stava esemplificando la capacità propria della nostra mente di cavalcare diversi cavalli in una volta, prendendo in cuor suo misure per trovarsi un alloggio a Middlemarch e mettere fine alla sua permanenza costante alla Grange. Mentre, attraverso queste immagini più ferve, passava rapidamente la visione stuzzicante di un poema epico sui furti di pecore, scritto con precisione omerica. Quando fu annunciata Mrs. Casebow, egli balzò in piedi come per effetto di una scossa elettrica e sentì un formicolio ai polpastrelli. Chiunque lo avesse osservato avrebbe notato un mutamento nel suo aspetto, nell'assestamento dei muscoli facciali, nella vivacità dello sguardo, che avrebbe potuto fare immaginare che ogni molecola del suo corpo avesse trasmesso il messaggio di un tocco magico. Ed era così. Perché la magia efficace è di natura trascendente? E chi misurerà la sottigliezza di quei tocchi, che hanno la qualità dell'anima oltre che del corpo e rendono la passione di un uomo per una donna diversa dalla sua passione per un'altra, come la gioia per la luce mattutina su una valle, un fiume, e la bianca cima di una montagna differisce dalla gioia che si prova fra lanterne cinesi e pannelli di vetro? Anche Will era fatto di materia, assai impressionabile. L'arco di un violino teso vicino a lui con abilità, d'un solo colpo avrebbe fatto cambiare l'aspetto del mondo ai suoi occhi, e il suo punto di vista variava con la facilità del suo umore. L'ingresso di Dorothea fu la freschezza del mattino. Bene, cara, mi fai piacere, ecco, disse Mr. Brooke andandole incontro e baciandola. Hai lasciato Casebow con i suoi libri, suppongo. È giusto. Non dobbiamo permetterti di diventare troppo dotta per una donna, capisci? Di questo non c'è pericolo, zio, disse Dorotea, volgendosi a Will e dandogli la mano con franca contentezza, senza ricorrere a nessun'altra forma di saluto, ma proseguì rispondendo allo zio. Sono molto lenta. Quando voglio stare sui libri, faccio spesso l'oziosa fra i miei pensieri. Mi rendo conto che essere dotta non è facile, come stendere progetti di cottage. Si sedette accanto allo zio, di fronte a Will, evidentemente preoccupato da qualcosa che la rendeva quasi incurabile di lui. Egli restò deluso in maniera assurda, come se avesse immaginato che la sua venuta fosse connessa in qualche modo con lui. Ma sì, cara, era proprio il tuo passatempo stendere progetti. Ma è stato bene interrompere un po'. Tendiamo a lasciarci trasportare dai passatempi. Non è bene lasciarsi trasportare. Noi dobbiamo tenere le redini. Non mi sono mai lasciato trascinare, mi sono sempre fermato. È quello che dico a Ladislav. Lui ed io siamo simili, sai? Gli piace interessarsi di tutto. Stiamo lavorando sulla piena capitale. Faremo un sacco di cose assieme, Ladislav ed io. Sì, disse Dorotea con caratteristica franchezza. Sir James mi ha detto che spera di vedere un gran cambiamento nella vostra conduzione della tenuta, che state pensando di far valutare le fatterie, fare e riparazioni, migliorare i cottage, di modo che Tipton possa sembrare un posto assolutamente diverso. Ma come sono felice! Proseguì intrecciando le mani, con un ritorno a quei modi impetuosi e infantili che, da quando era sposata, si erano smorzati. Se fossi ancora a casa, mi rimetterei a cavalcare per poter andare in giro con voi e vedere tutto questo. E avete intenzione di assumere Mr. Garth? Che ha lodato i miei cottage, dice Sir James. Certamente è un po' precipitoso, mia cara, disse Mr. Brooke, arrossendo lievemente. Un po' precipitoso, capisci? Non ho mai detto che avrei fatto alcunché del genere, non ho mai detto neppure che non l'avrei fatto, capisci? Si sente solo fiducioso che lo farete, disse Dorotea con voce chiara e ferma, come quella di una giovane corista che canta un credo. Perché avete intenzione di andare al Parlamento presentandovi come un membro a cui sta a cuore il progresso del popolo. E una delle prime cose da migliorare è lo stato della tenuta dei contadini. Pensate a Kit Downey, zio, che vive con la moglie e sette figli in una casa con un salottino e una stanza da letto non più ampia di questa tavola. E quei poveri Daigle nella loro fattoria in rovina, dove vivono nella cucina sul retro e lasciano le altre stanze ai topi. Questo è uno dei motivi per cui i vostri quadri non mi piacevano, caro zio, cosa per cui mi consideravate stupida. Ero solita tornare dal villaggio con l'immagine di tutto quel sudiciume e quella bruttura grossolana come un dolore dentro di me. E quei quadri dei personaggi sorridenti in modo sciocco nel salotto mi sembravano come un tentativo malvagio di trovare piacere in ciò che è falso, mentre non badiamo a quanto è dura la verità per i vicini fuori dalle nostre mura domestiche. Penso che non abbiamo il diritto di farci avanti e insistere per grandi mutamenti in meglio, finché non abbiamo tentato di cambiare i mali che ci stanno sotto il naso. Dorotea si era infervorata nel parlare e aveva dimenticato tutto, tranne il sollievo di dare sfogo ai propri sentimenti, senza alcun freno. Un'esperienza un tempo a lei consueta, ma mai più provata dal tempo del matrimonio, che era una lotta perpetua tra energia e timore. Per un momento l'ammirazione di Will fu accompagnata da un senso raggelante di lontananza. Un uomo, di rado, si vergogna di sentire di non poter amare una donna con intensità quando vede una certa grandezza in lei. La natura ha destinato la grandezza agli uomini, ma la natura ha talvolta commesso dei tristi errori nel mettere in pratica le proprie intenzioni. Come nel caso del buon Mr. Brooke, la cui consapevolezza virile in questo momento era stata presa da una certa balbuzia di fronte all'eloquenza della nipote. Non poté subito trovare altro modo di esprimersi che quello di alzarsi, mettersi il monocolo e palpare le carte di fronte a sé. E infine disse: C'è qualcosa di vero in ciò che dici, cara, qualcosa di vero in ciò che dici, ma non tutto, Ladislav? A voi e a me non va che si trovi da ridire sui nostri quadri e le nostre statue. Le giovani signore sono un po' ardenti, sapete, un po' unilaterali, mio caro. Le belle arti, la poesia, cose del genere, elevano una nazione. Emollit mores, capisci un po' di latino ora? Ma cosa c'è? Questi interrogativi furono rivolti al lacchè entrato per dire che il guardiacaccia aveva trovato uno dei figli di Dagley con un leprotto in mano appena ucciso. Vengo, vengo, Gliela lascerò passare liscia, sai, disse Mr. Brooke a parte a Dorotea, lignandosela molto allegramente. Spero che capiate come è giusto questo cambiamento che io, che Sir James Chatham, desidera, disse Dorotea a Will appena lo zio se ne fu andato. Sì, ora che ho sentito voi parlarne, non dimenticherò ciò che avete detto. Ma vi riesce di pensare a qualcos'altro in questo momento? Può darsi che non abbia un'altra occasione di parlarvi di cosa è successo, disse Will alzandosi con un movimento di impazienza e tenendo stretta la spalliera della sedia con entrambe le mani. Vi prego, ditemi di cosa si tratta, fece Dorotea ansiosa, alzandosi a sua volta e andando verso la finestra aperta dove Monk stava guardando dentro, ansimando e scuotendo la coda. Appoggiò la schiena contro l'intelaiatura della finestra e posò le mani sulla testa del cane, perché sebbene, come sappiamo, non amasse quei piccoli animali, che bisogna tenere in mano, altrimenti li si calpesta, era sempre attenta ai sentimenti dei cani e assai educata se doveva rifiutare i loro approcci. Will la seguì solo con gli occhi e disse: Presumo che sappiate che Mr. Casebo mi ha proibito di andare a casa sua. No, non lo sapevo, disse Dorotea dopo un attimo di silenzio. Evidentemente era assai scossa. Sono molto, molto dispiaciuta, soggiunse con tristezza. Pensava ciò di cui Will non era a conoscenza, la conversazione tra lei e il marito nell'oscurità, e ancora disperò di non poter influire sulle azioni di Mr. Casebo. Ma l'espressione profonda della sua tristezza convinse Will che questa non era solo per lui e che Dorotea non era stata sfiorata dal pensiero che l'antipatia e la gelosia di Mr. Casebo erano dovute a lei. Avvertì uno strano miscuglio di piacere e di irritazione, di piacere perché poteva dimorare ed essere accarezzato nel pensiero di lei come in una dimora incontaminata, senza sospetti e senza restrizioni, di irritazione perché per lei contava troppo poco, non aveva abbastanza potere su di lei, era trattato con una benevolenza priva di esitazioni che non lo lusingava. Ma il suo timore che in Dorotea avvenisse qualche cambiamento fu più forte della sua scontentezza e ricominciò a parlare in tono di mera spiegazione. Il motivo adotto da Mr. Casabo è il suo malumore perché ho accettato un impiego qui, che egli pensa non si confaccia al mio rango in quanto suo cugino. Gli ho detto che su questo punto non posso cedere. È un po' troppo duro aspettarsi che la mia carriera sia ostacolata da pregiudizi che considero ridicoli. La riconoscenza può venire forzata finché non diventa altro che un marchio di schiavitù inflittoci quando eravamo troppo giovani per comprenderne il significato. Non avrei accettato l'impiego se non avessi inteso renderlo utile ed onorevole. Non sono obbligato a considerare la dignità familiare sotto nessun'altra luce. Dorothea si sentì sventurata. Pensava che il marito avesse completamente torto per un numero di motivi maggiori di quelli che Will aveva ricordato. È meglio che non parliamo dell'argomento, disse con voce tremula, cosa insolita per lei. Dal momento che voi e Mr. Casaubon non andate d'accordo, intendete restare? Stava guardando fuori, sul prato, in malinconica meditazione. Sì, ma ora non vi vedrò quasi mai, disse Will in tono lamentoso, quasi infantile. No, disse Dorotea, volgendo gli occhi completamente su di lui. Quasi mai. Non sentirò parlare di voi. Saprò cosa state facendo per mio zio. Io non saprò nulla di voi, disse Will. Nessuno mi dirà nulla. La mia vita è molto semplice, disse Dorotea, piegando le labbra in un sorriso squisito che irradiò la sua malinconia. Sono sempre a Lowick. È una reclusione terribile, disse Will con impeto. No, non lo pensate, disse Dorotea. Non ho desideri. Egli non parlò, ma essa ribatté nel notare un mutamento nell'espressione di lui. Voglio dire, per me, tranne che desidererei non avere una parte tanto superiore a ciò che mi spetta senza fare nulla per gli altri, ma ho un mio credo e questo mi conforta. Qual è? Chiese Will, piuttosto geloso del credo, che desiderando ciò che è il bene perfetto, anche quando non sappiamo proprio quale sia e non possiamo fare ciò che vorremmo, facciamo parte della forza divina che combatte contro il male, ampliando le frontiere della luce e rendendo più ridotta la lotta contro le tenebre. Questo magnifico misticismo è un vi prego non chiamatelo con alcun nome, disse Dorotea, tendendo le mani in gesto di preghiera. Direte che è persiano o di qualche altra parte geografica. È la mia vita, l'ho scoperto e non posso separarmene. Ho sempre cercato la mia religione fin da quando ero una bambinetta. Ero solita pregare tanto, ora non prego quasi mai. Cerco di non avere desideri solo per me stessa, perché può darsi che non siano buoni per altri e possiedo già troppo. L'ho detto solo perché possiate sapere come trascorro le mie giornate a Lowick. Dio vi benedica per avermelo detto, esclamò Will con ardore e piuttosto stupito di se stesso. Si guardavano come due bambini affettuosi che parlano di uccelli in tono confidenziale. Qual è la vostra religione? Chiese Dorotea. Intendo dire non quello che sapete della religione, ma la credenza che vi è di maggiore aiuto. Amare ciò che è buono e bello quando lo vedo, disse Will. Ma io sono un ribelle. Non mi sento obbligato come voi a sottomettermi a ciò che non mi va a genio. Ma se amate ciò che è buono, questo significa la stessa cosa, disse Dorotea sorridendo. Ora siete sottile, disse Will. Sì, Mr. Casebo dice spesso che sono troppo sottile. Io non ho l'impressione di esserlo, disse Dorothea in tono scherzoso. Ma quanto tempo impiega mio zio? Devo andare a cercarlo. Devo davvero proseguire per il palazzo. Celia mi sta aspettando.